Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Alessia. Bentornati su Radio Città Fucico, questa è Van Loon della vostra mezz'ora di storia. Oggi è il 30 gennaio e, come vi avevamo anticipato anche sui nostri canali Facebook, parliamo del giorno della memoria, che è stato il 27 gennaio. E come abbiamo visto in questi giorni e continueremo a vedere per almeno una settimana, c'è stata o ci sarà un fiorire di iniziative online, visto che la pandemia non si poteva fare altro rispetto a questo appuntamento. E come chissà chi ci segue, anche noi non possiamo fare a meno di parlare di questo argomento, ma nella nostra riflessione quotidiana sulla storia e sulla memoria e sull'intreccio di queste, il 27 gennaio è solo un tassello che ci permette di osservare più da vicino alcune storie, alcuni temi che a noi ci sono molto cari, con però molte domande che ci guidano lungo questa strada. Quando parliamo di Olocausto, sappiamo davvero di cosa si parla? Oppure nella società dell'immagine, le foto, le tantissime foto che vediamo in questo periodo sui social, sui libri, dei corpi straziati, la domanda è: possono aiutarci davvero a capire il perché sia successo? E riusciamo noi a collocare queste foto nel loro vero contesto? Un'altra domanda che ci sorge spontanea è questa: il giudizio morale universale che diamo alla Shoah va bene per tutto? Ancora, per Van Loon è davvero molto importante parlare del contesto in cui si è arrivati ai campi di concentramento, che sono solo, tra virgolette solo, l'atto finale di una politica di sterminio messa in atto scientificamente da uno Stato al fine di eliminare fisicamente gruppi di persone. E sappiamo che la congiunzione di varie cause ha portato ciò, non da ultime, e questo non smetteremo mai di ripeterlo nelle nostre puntate, non abbiamo mai smesso di ripeterlo in questi anni, non da ultima l'indifferenza della società, e non solo tedesca, e la collaborazione attiva e passiva dei molti. Come far sì che questo non diventi, questo giorno della memoria che si celebra da 20 anni, non diventi solo uno stanco rituale con parole d'ordine e stantie, tipo che non possa succedere più? Ovviamente non ci riflettiamo sempre, non abbiamo delle formule magiche. Ma questo 27 gennaio abbiamo deciso di parlare di un tema che noi non abbiamo mai toccato, e appunto ci faceva davvero piacere toccarlo e parlarne, come spesso accade in questi microfoni, prendendo spunto da un romanzo. Il romanzo di cui andremo a parlare tra poco è Bruceranno come ortiche secche, relazioni pericolose al tempo di Adolf, della mantovana Oligo Edizioni, che esce il 4 febbraio e che noi abbiamo letto in anteprima grazie alla casa editrice, e tra poco parleremo con la scrittrice, che si chiama Helga Schneider. Le relazioni pericolose di cui parla il sottotitolo sono le relazioni omosessuali dal 1933 in poi nella Germania nazista. Dopo gli ebrei, nemici dello Stato, per i nazisti al potere ci sono gli omosessuali, rei, oltre che di andare contro la pubblica morale, di scegliere deliberatamente di non dare più figli al Terzo Reich e quindi non portare avanti la razza ariana. Non che prima fosse un mondo ideale. La legge che puniva l'omosessualità in Germania risale all'Ottocento, che viene abolita formalmente nella Repubblica Federale Tedesca solo nel 1969, ma diciamo che nella Repubblica di Weimar, complice anche l'effervescente clima artistico berlinese, l'omosessualità era fondamentalmente tollerata, e nella capitale tedesca ci sono circa 300 luoghi di ritrovo per omosessuali, il più famoso dei quali è l'Eldorado. La breve marcia che porta gli omosessuali nei campi di concentramento passa per le denunce, le delazioni e la schedatura di gay o sedicenti tali, cioè basta un sospetto di un delatore per far scattare la macchina organizzativa, poi la castrazione, prima volontaria. In tal modo gli uomini potevano salvare la propria vita, perché agli occhi dei nazisti era un modo per guarire, e poi la castrazione obbligatoria. Seguiranno poi i campi di concentramento con l'ormai famoso triangolo rosa, cucito sul petto dei detenuti, e gli esperimenti pseudoscientifici e poi la morte certa. I numeri non sono facili da capire. Diciamo che i perseguitati dal 1933 al 45 siano circa 100.000 persone, la maggior parte delle quali finisce in carcere, e poi si parla di circa 15.000 internati che portavano fisso appunto al petto il triangolo rosa, ovvero questo significa che erano stati ufficialmente deportati ed internati in quanto omosessuali. Dico ufficialmente perché molto spesso i gay e le lesbiche, di cui in questa puntata non parliamo, ma che chiaramente anche loro sono perseguitate, vengono internate nei campi di concentramento perché sono ebrei o perché sono prigionieri politici. In seguito la difficoltà di rintracciare queste persone, quindi producendo una letteratura scientifica basata sia su testimonianze sia su fonti documentali come è avvenuto per gli ebrei, sta nel fatto che lo stigma di essere gay non scompare con il nazismo. È un tabù che noi ci trasciniamo fino ad oggi e che ha fatto sì che i sopravvissuti avrebbero parlato pochissimo o non avrebbero parlato affatto. I primi studi sull'omocausto, il neologismo coniato per l'olocausto nelle persone LGBT, si hanno alla fine degli anni 70, in concomitanza con l'esplodere del movimento di liberazione omosessuale e di rivendicazione dei diritti, e squarciano finalmente quel velo di ipocrisia sedimentato su questo argomento. Noi, prima di incontrare Helga Schneider, andiamo in musica e ci sentiamo un pezzo in tedesco di Franco Battiato. Ein Tag auf dem Leben des kleinen Johannes. La manina che sbuca pallida dal tuo vestito alla marinara. Johann, klein Johann. Denn ein kleines Mädchen, was soll aus dir werden, wenn du so fortfährst? Er trank an den bekriegten Tischen den heißen Tee. Unter Tasse. La musica ti sfinì. Torniamo in onda, siete su Radio Città Fucico e questa è Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come vi abbiamo già annunciato, abbiamo una graditissima ospite, Helga Schneider. Salve Helga. Salve, buongiorno. Helga Schneider è una scrittrice, ha scritto per Oligo Edizioni il romanzo che uscirà il 4 febbraio, quindi siamo veramente in anticipo, romanzo che si chiama Bruceranno come ortiche secche, relazioni pericolose ai tempi di Adolf. Helga Schneider, oltre al fatto di essere una scrittrice, ha scritto molti libri in questi anni, è una testimone oculare del nazismo. Helga, ci racconta qualcosa di quel periodo terribile che ha vissuto la Germania? Sì, volentieri. Intanto per quasi 20 anni ho girato tutte le scuole italiane su e giù per lo stivale, per testimoniare, per sensibilizzare le scolaresche contro le dittature, eccetera. Comunque la mia infanzia è stata letteralmente rubata da Adolf Hitler e dal nazismo. Io vivevamo a Berlino, che era veramente la centrale del male del nazismo, perché lì c'erano gli edifici della Gestapo, insomma tutti gli edifici importanti del governo. E quindi, essendo nata nel 1937, 2 anni dopo è cominciata la guerra, e non lo sanno veramente in tanti, ma appena cominciata la guerra nel 1939, gli alimentari in Germania erano già razionati e molte cose non si compravano più, e comunque è cominciato quasi subito la fame, che poi ovviamente mentre la guerra aumentava e diventava più pesante, anche la fame diventava sempre più pesante, che poi a un certo punto sono arrivati i bombardamenti. Io mi ricordo per esempio nel 1945, diciamo i primi mesi, almeno 4 mesi, 5 mesi, sempre chiusi in una cantina con gli altri inquilini, senza più niente, né medicinali né quasi nulla da mangiare, con i bombardamenti che cominciavano con gli americani al mattino, con gli inglesi, continuavano durante la notte. Tutta questa storia poi andò avanti finché poi la guerra non finì finalmente. Ovviamente in tutta questa tragedia per tutta la Germania e anche per tutti i bambini, c'era la mia tragedia personale di una madre che ha abbandonato me e mio fratellino, che lui aveva solo 19 mesi e io 4 anni, a Berlino, andandosene oltretutto con mio padre già al fronte. Quindi ebbi poi una matrigna che, come nelle favole, la cattiva matrigna voleva solo il mio fratello, che era più piccolo, più innocente, più innocente ero anch'io, ma ero più sveglia perché 19 mesi non comprendi ancora le cose. Lei non mi voleva, già durante la guerra mi ha subito allontanato dalla famiglia, mentre mio padre era al fronte, per mettermi prima in un istituto per bambini da rieducare. Io avevo solo bisogno di amore, e che poi in un altro. Senta Helga, io le chiedo qualcosa del libro perché è veramente molto interessante. Nel libro c'è scritto, leggiamo, che all'inizio del 33 l'entusiasmo per Hitler sembra alle stelle. È davvero così? Veramente i tedeschi si erano invaghiti, innamorati di questo capo dopo la Repubblica di Weimar? Assolutamente sì, perché prima di Hitler la Germania era in una grande miseria, grandissima disoccupazione, 6 milioni di disoccupati dopo il crack di Wall Street, che aveva danneggiato tutta l'Europa, ma anche la Germania, e particolarmente la Germania. Quindi quando Hitler, durante la campagna elettorale, ha promesso di tutto a un paese paurosamente impoverito, allora quando finalmente, poi intanto lo hanno votato, certo, sperando che... Intanto lo hanno votato con gioia quasi tutti, e poi alla fine lui all'inizio molte cose le ha anche reso reali. Per esempio, dopo poco tempo non c'era quasi più disoccupazione in Germania, questo ovviamente a costo di cose gravi, per esempio riaprendo le fabbriche delle fabbriche che preparava tutto per la guerra. La gente non capiva che tutto questo era che Hitler prima o poi la guerra la voleva. Quindi aveva alleggerito moltissimo la disoccupazione, quindi all'inizio erano veramente tutti entusiasti, o diciamo quasi tutti. C'erano anche persone come Thomas Mann, il grande scrittore, che aveva capito fin dall'inizio che era tutta una fregatura e che Adolf Hitler avrebbe condotto la Germania verso l'abisso, cosa certo, che fece. Certo. Però all'inizio anche la gioventù, perché durante la campagna elettorale dei nazisti Hitler ha promesso ai giovani: guardate, se un domani io sarò il vostro capo, no? Io vi prometto, vi faccio fare molto meno scuola e molto più sport, e questo alla fine poi lo fecero. Quindi sì, grande entusiasmo. Il libro poi si svolge durante i primi mesi, subito dopo che Hitler è stato nominato cancelliere. Quindi sì, l'entusiasmo in quel momento era davvero alle stelle, alle stelle, specialmente da parte dei giovani. Invece, ovviamente non sì, di tutti, ma comunque una buona parte. Esatto, sì. Nel libro infatti si parla di questa, la storia di due giovani, di questa giovane coppia gay che già all'inizio del 33 è ostacolata. E quindi, sì, prego. Sì, no, perché appena arrivò Hitler fu subito chiaro e lo dissero sulla stampa senza alcun dubbio che fin dall'inizio né gli ebrei né gli omosessuali avevano possibilità di stare bene in Germania, perché erano entrambi contrari all'ideologia del nazismo, cioè di Adolf Hitler. Certo. E quindi questo fu chiaro subito. Quindi c'era una parte della popolazione che sperava che Hitler esaudisse tutto quello che aveva promesso. Ovviamente questi due ragazzi gay, che erano poi due bravi ragazzi, uno un pittore, l'altro frequentava la scuola d'arte, quindi due ragazzi puliti, no? Loro sì avevano paura, perché avevano capito subito, cioè, cosa avrebbe potuto succedere, anche perché poi immediatamente durante i primi mesi il governo di Hitler ha cominciato a fare delle leggi, diciamo dei decreti, così per la graduale chiusura di tutti i locali sospettati di essere luoghi di incontro per omosessuali. Quindi questi ragazzi che frequentavano un locale frequentato da gay cominciavano a avere timore, e il timore poi ogni giorno aumentava, perché capivano che non era più un paese per loro. D'altronde, dove andavano? Uno era, il secondo era ancora minorenne, perché lì diventavano maggiorenni a 21 anni all'epoca. Quindi sì, entusiasmo da parte dei tedeschi, grande timore, un'atmosfera soffocante per due ragazzi gay che avevano l'unico difetto per Hitler di non essere dell'opinione del governo, dei nuovi reggenti, insomma. Secondo lei, Helga, c'erano, brevemente, così poi chiudiamo, ci sono state sacche di resistenza in questi anni di nazismo? Allora, la resistenza fu anche abbastanza importante, ma più in là, perché noi siamo ancora nel 33. Poi per esempio nel 35, e la persecuzione degli omosessuali era diventato assolutamente durissimo, perché un decreto autorizzò addirittura la castrazione definitiva per gli omosessuali, semmai ci fosse stato un sospetto che fossero gay, no? Quindi era una cosa che rapidamente diventò molto molto molto dura. Ovviamente non parlo adesso della persecuzione degli ebrei, che sappiamo tutto è stata una cosa terrificante, eccetera. Questo è un capitolo a sé, però io volevo così porre l'attenzione su questo scorcio della storia vera, no? Gli omosessuali, che poi una storia che storicamente è stata affrontata, credo, poco, e attualmente dopo decenni l'omofobia è ancora un problema sociale. Esatto, quindi gli omosessuali all'interno del Terzo Reich e poi con la deportazione sono stati vittime nelle vittime, perché anche dopo hanno avuto timore a parlare. Sì, ma certamente, perché poi Adolf Hitler addirittura, credo nel 43, addirittura disse durante un discorso ai suoi ufficiali, eccetera, che siccome la gioventù hitleriana era, come dire, il futuro più importante di un futuro Reich, millenario Reich, che Hitler ancora sperava che sarebbe avvenuto. Quindi se durante, se nelle file della gioventù hitleriana avessero scoperto un omosessuale, quello meritava la morte. Quindi ci fu veramente una durissima persecuzione e criminalizzazione dei gay nel Terzo Reich. Helga Schneider, grazie per questa bellissima chiacchierata. Noi ricordiamo che il 4 febbraio esce in libreria il suo ultimo romanzo, Bruceranno come ortiche secche, relazioni pericolose ai tempi di Adolf, edito da Oligo Editore. Grazie Helga, grazie mille. Grazie mille ragazzi, grazie mille a voi. Ciao, arrivederci. Ciao. Passano gli anni, i treni topi per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Passa la gioventù, non te ne fare un matto, lo sai che tutto cambia, nulla si può fermare. Cambiano i regni, le stagioni, presidenti, il vero senso della vita, si cambia amore, idee, amore, per noi che siamo solo di passaggio. Diametrali delimitazioni, 720 casi, soffia la verità nel libro della formazione. Passano gli alimenti, le voglie, i salti malcontenti, non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume. Cambiamenti di costume, e intanto passa ignaro il vero senso della vita, ci cambiano capelli, denti e semi a noi che siamo solo di passaggio. Grazie ancora a Helga Schneider, voi siete su Radio Città Fujiko e questa è Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Stiamo parlando dell'Olocausto, il neologismo coniato per ricordare l'olocausto delle persone omosessuali. E dopo aver sentito Helga Schneider io vi voglio ricordare un'altra cosa. Ci sono moltissimi monumenti che sono stati costruiti in questi ultimi anni e che ricordano l'Olocausto. Il monumento più famoso in Europa è sicuramente quello di Amsterdam, è molto suggestivo, è realizzato con tre triangoli. Il primo triangolo è disegnato sul pavimento, il secondo emerge dal suolo e il terzo non è altro che un piccolo molo che si protende verso il canale. La punta di questo triangolo rosa indica la casa di Anna Frank. C'è un altro in America, che è quello di San Francisco, che è uno dei monumenti più conosciuti. Inaugurato nel 99 e composto da 15 pilastri di granito, che sono rosa, in ricordo di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali perseguitati. E sono visibili nel Pink Triangle Park, nel quartiere gay della città che si chiama Castro. Ma anche noi abbiamo il monumento alla deportazione gay. A Bologna infatti è stato realizzato il primo di questi monumenti e venne inaugurato nell'aprile del 1999 per la ricorrenza del 45esimo anniversario della Liberazione e, se volete andarlo a visitare, si trova all'interno dei giardini di Villa Cassarini, che sono quei giardini che si trovano vicino Porta Saragozza, Porta Saragozza che è stata la prima sede italiana messa a disposizione da una giunta comunale per la comunità LGBTQ e correva l'anno 1982. Fra le iniziative che sono state messe in campo in questi giorni nella nostra regione segnaliamo Parole del Silenzio, lettere e pensieri dei deportati al campo di Fossoli, realizzato al Largo Sant'Eufemia di Modena da parte degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Professionale Corni e coordinati dalla professoressa Chiara Bonfiglioli, una docente che da tanto tempo si spende per la trasmissione della memoria fra ragazzi e le ragazze assieme alla Fondazione Fossoli. E ci piace darvi una segnalazione di questa iniziativa perché questa installazione visiva e sonora che racconta le storie dei deportate e dei deportati Luciana Nissim, Marta Cohen, Yader Spizzichino, Clara Pilani Cardosi, Gianluigi Banfi, Ada Michelstatter Marchesini è stata realizzata dalle ragazze e dai ragazzi della scuola che grazie allo studio dei documenti sono riusciti a ricostruire quelli che sono stati i pensieri di questi caduti nei campi di concentramento. Una bella dimostrazione di quello che i ragazzi e le ragazze di oggi, anche dei professionali spesso etichettati come studenti di serie B dalla società e dalle istituzioni stesse, sono in grado di fare. Per avere un assaggio dei bei lavori che al Corni hanno fatto in questi anni, segnaliamo anche il video Parole che resistono con la lettura delle lettere ai condannati a morte della Resistenza che vi segnaliamo poi sul nostro sito. E io vi segnalo che sulla pagina Facebook dell'Istituto Storia Marche ci sono le pillole di storia sull'antisemitismo, curate tra gli altri dalla nostra Alessia Masini e dagli amici di Vallun Matteo Petracci e Marco Labbate e Luca Andreoni e Leonardo Fresta. In ultimissima istanza vi segnaliamo alcuni libri che sono usciti in questo periodo per il Giorno della Memoria, ma che valgono, come sappiamo bene, anche per il resto dell'anno. Una bella pubblicazione è quella delle edizioni Giuntina, che si chiama Gli specialisti dell'odio, delazioni, arresti, deportazioni di ebrei italiani, di Amedeo Osti Guerrazzi. Poi Greta Fedele e Sara Troglio hanno scritto Vera, Resistenza, deportazione e impegno di Vera Michelin Solomon di Mimesis. Poi vi segnalo Il cielo sereno e l'ombra della Shoah, 8 stereotipi sulla persecuzione antiebraica nell'Italia fascista di Michele Sarfatti, edito da Viella, e sempre per Viella, Culture antisemite, Italia ed Europa dalle leggi antiebraiche al razzismo di oggi, a cura di Filippo Focardi e Anna Cegna. Noi vi salutiamo in musica con un altro pezzo di Battiato e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao! Ciao! In 1945 I came to this planet. Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupore nel sentire il cielo azzurro pare limpido e regale. Cielo a volte invece ha qualche cosa di infernale. Strani giorni, viviamo strani giorni. Cantare, sento rumore di swing provenire dal neolitico, dall'olocene. Sento il suono di un violino alone, I'm walking alone through the gray Sunday street. E mi circondano l'alba e il mattino. The place is clean, well lit. Chissà com'erano allora. I went to the set, I suppose I said. Il rio delle Amazzoni ed Alessandria la grande, e le preghiere e l'amore, chissà com'era il colore. You look at the hands, not at the face. If you want to stay out of trouble,